Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi dedichiamo questa prima parte della trasmissione a due milanesi che ricordiamo quest'anno. Il primo è Giorgio Ambrosoli, l'avvocato che venne ucciso nella notte di 30 anni fa, fra l'11 e il 12 luglio del 1979. Giorgio Ambrosoli era il liquidatore della banca privata di Michele Sindona, era stato nominato a quella carica il 27 settembre 1974 e avrebbe adempiuto l'incarico con uno straordinario scrupolo professionale, uno scrupolo che lo avrebbe portato a decifrare le complicatissime trame finanziarie di Sindona e a rappresentare il principale e decisivo ostacolo ai tentativi dello stesso Sindona di risollevare la propria situazione. Sindona nel frattempo era stato arrestato negli Stati Uniti e aveva cercato di evitare in tutti i modi di essere estradato in Italia e soprattutto che procedesse la liquidazione sulla quale vigilava appunto Ambrosoli. Sindona naturalmente fece di tutto in questo suo tentativo e cercò molti appoggi nella politica anche grazie alle ramificazioni della P2 e soprattutto cercò appoggi nella Democrazia Cristiana e nella corrente andreottiana. Lo stesso Sindona sarebbe poi stato condannato all'ergastolo come mandante e organizzatore dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, salvo poi morire avvelenato, pare per suicidio, nel carcere di Voghera pochi giorni dopo la condanna. La vicenda è adesso ricostruita nel libro Qualunque cosa succeda, pubblicato da Sironi, 320 pagine, 18 euro. Non si tratta di una ricostruzione qualunque perché l'autore del libro è il figlio minore di Giorgio Ambrosoli, Umberto Ambrosoli, che perse il padre all'età di nemmeno 8 anni. La commozione e l'emozione non fanno velo alla capacità di ricostruire non solo la vicenda umana dell'avvocato Ambrosoli e della sua famiglia, ma anche le complesse vicende al centro delle quali si trovò l'avvocato. E queste vicende sono inserite nel drammatico clima politico, economico e sociale di quella seconda metà degli anni 70. Esce confermata dal libro la solitudine di Ambrosoli, che non godette di particolari protezioni nel suo lavoro. Esemplare anche il ruolo, così come emerge dal libro, di Enrico Cuccia, che pur avendo ricevuto molte minacce da parte di Sindona non ritenne mai di dover informare né la magistratura né tantomeno lo stesso Ambrosoli. Il titolo del libro è tratto da una frase di una lettera che Ambrosoli scrive alla moglie già nel 1975, quando ha compreso le difficoltà estreme dell'impegno che si è assunto e dei pericoli che esso può comportare, pericoli che egli dunque mostra di assumere con responsabilità e consapevolezza. Vi propongo alcune righe da quella drammatica lettera. Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana, atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende all'Averzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordi i giorni dell'unione monarchica, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti? Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava. E hanno ragione, anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, o purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesseria. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare, e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Un altro milanese illustre di cui si parla in questo periodo è Paolo Grassi, il mitico fondatore e direttore del Piccolo Teatro, poi sovrintendente alla Scala, poi presidente della RAI, di cui quest'anno si ricorda il 90° anniversario della nascita. Escono in questa occasione i suoi scritti per L'Avanti, il giornale del Partito Socialista nel quale Grassi aveva militato, e sono scritti tra il 1945 e il 1980, raccolti nel volume Il coraggio della responsabilità, pubblicato da Schirà. 400 pagine, 30 euro. Un'occasione importante sia per conoscere meglio questo personaggio, sia per avere una panoramica della produzione italiana in campo teatrale, sia, e forse questa è la ragione principale, per avere uno squarcio importante sulla politica culturale di cui Grassi fu certamente uno dei massimi esponenti nel nostro paese per oltre 30 anni. Il volume è stato curato da Valentina Garavaglia e Carlo Fontana, il quale ultimo di Grassi fu allievo, successore alla Scala come sovrintendente. Ieri tra l'altro gli è stato conferito a Oderzo il premio alla memoria di Giuseppe Di Stefano, e proprio a Carlo Fontana abbiamo rivolto alcune domande su Paolo Grassi. Buongiorno a Carlo Fontana. Buongiorno. Questo suo libro ci aiuta a riscoprire la figura di Paolo Grassi, nato 90 anni fa, un grande intellettuale, un grande operatore culturale, fu anche presidente della RAI. Ecco, qual è l'attualità di Paolo Grassi che emerge da questi scritti che avete ripubblicato? Io credo che l'attualità consista nel riportare all'attenzione di tutti coloro che operano nella cultura e in particolare nello spettacolo il concetto che ha informato tutta l'attività di Paolo Grassi, e cioè la cultura intesa come pubblico servizio. La cultura è qualcosa che serve alla collettività, serve a soddisfare dei bisogni individuali che magari non sono totalmente espressi, ma che comunque devono poter avere un modo di essere soddisfatti. E infatti proprio nel 1946 scrive un articolo intitolato Teatro pubblico servizio. Quello è il manifesto ed è importantissimo, perché il manifesto è il suo pensiero, ma è importantissimo appunto perché poneva le basi concettuali di quello che poi furono le grandi innovazioni del dopoguerra, a cominciare dalla nascita e fondazione del Piccolo Teatro di Milano, da dove poi parte tutto il movimento dei teatri pubblici e della cultura appunto intesa in modo diverso rispetto al passato. E invece un altro scritto di molti anni dopo, del 74, affronta il tema del rapporto fra la crisi economica e la Scala. Grassi in quegli anni è sovrintendente e appunto deve fare i conti con una stretta economica come quella che ci affligge oggi. Ecco, che cosa insegna la lirica? Si può governare dal punto di vista economico? Il problema è che la lirica deve essere governata cercando di mutuare l'efficientismo aziendale, cioè gli strumenti che sono propri della conduzione economica di un'azienda possono essere riportati nel mondo del teatro d'opera, a condizione però che rimanga immutata la finalità del teatro pubblico, e cioè quella di servizio. Voglio dire, l'utile di un bravo manager musicale non è il profitto dell'azienda teatro, è il profitto culturale rispetto al lavoro che fa, capisci? Oggi come si troverebbe Grassi in una situazione in cui appunto il pubblico riduce sempre di meno i propri contributi e il privato poi non manifesta tutto questo eccessivo entusiasmo nel sostituire il pubblico? Credo che continuerebbe la sua battaglia, anche se va detto, ricordato, e non si ricorda abbastanza, che Paolo Grassi, sovrintendente alla Scala, non ebbe nessuna difficoltà ad accettare la sponsorizzazione della Montedison di Cefis per la tournée degli Stati Uniti del 1976 della Scala per il Biciano degli Stati Uniti, a dimostrazione che Grassi un'attenzione per il mondo del privato l'aveva. E d'altra parte basta andare a vedere l'atto fondativo del Piccolo Teatro, dove accanto ai pubblici c'è una serie di soggetti privati. E questo la dice lunga, non c'era quindi da parte di Grassi una sorta di ostilità nei confronti del teatro, pur essendo parte di una cultura che aveva nel pubblico il suo aumento principale, anzi era certamente per un'alleanza tra pubblico e privato, ma sempre ovviamente a fini pubblici. L'ultimo scritto pubblicato in questa raccolta riguarda la RAI, Grassi scrive alla commissione di vigilanza per sollecitare le nomine e sottolinea il fatto che bisogna resistere alla logica delle lottizzazioni politiche. Ecco, mi pare che anche questo sia un tema di grande attualità: la lottizzazione alla RAI da allora è diventata, se possibile, ancora più ferrea. Guardi, io ho un'idea molto precisa. E Grassi si lamentava della lottizzazione, ma certamente sarebbe oggi inorridito di fronte non alla lottizzazione, ma a qualcosa di molto diverso, a uno spoil system esasperato che secondo me non si addice a un'azienda culturale. La cultura si fonda, le aziende culturali si fondano sul pluralismo delle opinioni e delle tendenze che devono poter liberamente confrontarsi tra di loro. E se questo viene meno, ne soffre la dialettica necessaria per una crescita civile del paese. Bene, grazie a Carlo Fontana che ha curato questo volume di Paolo Grassi. Grazie. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso andiamo all'aria aperta e occupiamoci di boschi e di alberi. Comincio con Abbracciare gli alberi, mille buone ragioni per piantarli e difenderli, di Giuseppe Barbera, che è professore di culture arboree a Palermo. Il libro è pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 17 euro. Abbracciare gli alberi non è una concessione a mode hippio New Age, ma è un gesto simbolico per riappropriarci del nostro rapporto con gli alberi, riconoscendo il ruolo essenziale che essi svolgono. E questo libro di Barbera è ricchissimo di riferimenti letterari e storici alle foreste, ai boschi, agli alberi, e ci aiuta a ricostruire un rapporto con gli alberi, e ci aiuta anche a tenere presenti le funzioni insostituibili che questa creatura, diciamo, oppure il fogliame, i tronchi, le radici svolgono. E ci aiuta questo libro a darci da fare per difenderli e per diventare amici degli alberi, magari piantandoli nel nostro giardino. Sentiamo queste righe con uno stacco musicale sul significato dell'abbraccio agli alberi. Tree hugger, abbracciatore di alberi, è oggi in America un appellativo usato per prendere in giro gli ambientalisti più rigorosi. Brutto hippie abbracciatore di alberi, urla un cattivo fumetto di South Park. Ma non va dimenticato che anche molte pratiche terapeutiche, scientificamente provate, affidano al rapporto con la natura, al giardinaggio e alla pratica di abbracciare gli alberi, la cura o il recupero da malattie fisiche e mentali. Del resto, García Lorca ha scritto che tutte le malinconie sfumano in giardino. In molte scuole, quelle almeno che godono di un giardino o della sua vicinanza, si va anche diffondendo la pratica di far abbracciare gli alberi ai bambini. Perché da grandi non si dimentichino dei loro amici, magari ricordando con Sergio Endrigo i primi elementi di botanica. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. C'è un albero in particolare che rappresenta un unicum per la forza, il significato anche simbolico e la diffusione che ha avuto in tutto il mondo, la quercia. E alla quercia è dedicato il libro omonimo di uno studioso americano, William Bryan Logan. Il sottotitolo è Storia sociale di un albero, è pubblicato da Bollati Boringhieri, 254 pagine, 25 euro, tradotto da Lorenzo Stefano Borgotallo. La quercia ha la caratteristica di essere un albero assolutamente ordinario che non raggiungerà alcun record, un albero per nulla speciale, dicono gli esperti. Però proprio questa caratteristica ne ha fatto uno degli alberi più diffusi. Negli Stati Uniti, per esempio, scrive l'autore, puoi andare dal Massachusetts a Città del Messico e trovare ovunque lo stesso genere, la quercia, mentre sono pochissimi gli altri generi, anche solo comuni a entrambe le zone. E infatti, aggiunge lo studioso, la quercia è il nome d'albero più diffuso in tutte le lingue occidentali, dal sanscrito al celtico, dal subcontinente indiano alla punta dell'Irlanda. Il nome del primo Buddha, preciso Shakyamuni, significa il saggio del popolo della quercia. E dunque qui troviamo la storia di questo albero, le sue caratteristiche e soprattutto le applicazioni alle quali la quercia ha dato vita. Per esempio quel tipo particolare di inchiostro tratto dalle galle di quercia che fu fu considerato un inchiostro indelebile usato per quasi 500 anni anche da Leonardo da Vinci, ma che soltanto 100 anni fa abbiamo scoperto avere delle conseguenze devastanti sul tipo di carta sul quale veniva usato, una carta che viene mangiata dai composti di questo inchiostro. Capite dunque quanti squarci può aprire la storia di un albero su tante altre storie, ma anche sull'arte, sull'industria e sulla società. Ce lo confermano queste righe ispirate all'arte difficile del bottaio e che ha naturalmente come materia prima il legno della quercia. La cosa meravigliosa della fabbricazione delle botti e delle altre arti applicate era che occupavano il cervello, la mano e le emozioni tutto al tempo stesso. Vi era una serie di ostacoli al completamento dell'attività e questi dovevano essere superati dalle conoscenze sul campo maturate dall'artigianato, un misto di esperienza, memoria e azione. Memoria, ragione e talento sono i tre doni di Dio agli uomini e l'esercizio simultaneo dei tre potrebbe essere la precondizione per diventare e rimanere un essere umano. L'arte è maestra di pazienza, la pazienza è madre della felicità. È con la pazienza che possiamo tollerare la compagnia dell'altro abbastanza a lungo da arrivare ad amarlo. Con la pazienza che possiamo collaborare a un progetto. Con la pazienza che possiamo passare da una condizione pessima a una quasi perfetta. Con la pazienza che possiamo evitare di sprecare le nostre vite tra rabbia e delusione. La persona paziente aspetta, ascolta, spera, prega, nutre, si prende cura, ricorda, parla, si fida ed è gentile. La persona impaziente pretende, si arrabbia, va di fretta, presume, è sconsiderata, si dispera, dimentica, si lamenta, non si fida, disgrega. Tante querce fanno un bosco e allora nella stessa collana di Bollati Boringhieri troviamo un altro botanico, questo tedesco, Hans-Jörg Küster, che ci dà una storia dei boschi dalle origini a oggi, 276 pagine, 26 euro, tradotto da Carola Lodari. Questo è un altro viaggio, altrettanto affascinante, nella nostra identità ambientale, ricostruita attraverso la storia dei boschi, caratterizzata da una continua evoluzione che il libro vuole appunto esplorare. Küster esamina perciò l'origine dei boschi, ma soprattutto la loro gestione e il rapporto col bosco e con l'idea di bosco che si è creata nei secoli. Un rapporto fatto all'inizio di grande paura, di timore, ma poi di familiarità e consapevolezza e anche concretizzatasi nella gestione economica, nelle politiche di tutela per una risorsa, appunto il bosco, che rappresenta una grande ricchezza non soltanto per il legname, una ricchezza che non doveva essere distrutta, ma andava attentamente gestito. E naturalmente troviamo in questo libro tanti boschi di querce e vi propongo allora queste righe sullo straordinario significato sociale e identitario che la quercia assume nel corso dei secoli. L'importanza delle querce continuò ad aumentare. In Francia, al tempo della rivoluzione del 1789, se ne piantarono numerosi esemplari come emblemi di libertà e nel 1792 ne sarebbero nate addirittura 60.000. Se ne piantavano anche in Germania, ma oltre a essere simboli di libertà, in Germania le querce avevano assunto anche un significato più specifico, poiché in quanto immagine dell'identità nazionale diventarono simboli della rivolta contro la repressione francese, al tempo in cui le truppe di Napoleone dominavano quasi tutta l'Europa. Pochi anni dopo, l'esercito di Napoleone venne sconfitto e fu comprensibile che si utilizzassero simbolicamente anche le foglie di quercia quando re Federico Guglielmo III di Prussia creò nuove insegne militari. Le decorazioni per tutti i gradi avevano la croce di ferro che ora veniva dotata di foglie di quercia, quale speciale segno distintivo. Da allora in avanti, la quercia fu l'albero dei tedeschi. Caspar David Friedrich lo dipinse ripetutamente, dapprima in pieno rigoglio, e negli anni seguenti quasi moribondo, ma sempre eroicamente proteso verso il cielo. E adesso vi propongo la descrizione di una foresta italiana, la cosiddetta foresta umbra in Puglia. E sono alcune righe tratte da un libro di Cesare Brandi che immediatamente dopo vi presenterò. Solo dopo un pezzo, passato un paesello che si chiama Vico, comincia a intravedersi la foresta. E allora, è come quando in orchestra si accordano gli strumenti e fanno quel brusio. All'inizio c'era brusio di alberi giovani, magri come pali, ed erano castagni, noccioli. Già l'aria era divenuta più densa e più leggera. Più densa perché si respirava col verde, con l'umido, con l'ombra. Più leggera perché non si sa come non sembrava arrivasse in fondo ai polmoni. Sfuggiva dalle narici in alto come il fumo di una sigaretta. Erano dunque le avvisaglie. Arrivò il grosso, silenzioso, subito immenso e altissimo. Tronchi di faggio lisci e dritti come ciminiere salivano dal fondo valle e mandavano fuori grandi, dilatate ramaglie con le foglie stese come galleggiassero. E nell'ombra luminosa, quelle foglie trasparivano come membrane. Sembrava dovessero riflettere il verde addosso, quasi filtri di luce. E poi le palme spalancate degli aceri e le frappe smerlate, capricciose dei cerri. E noccioli. E sotto tutto questo, le felci umide come viste in un acquario. Queste erano alcune delle righe dedicate appunto alla foresta umbra nel libro di Cesare Brandi, Viaggi e scritti letterari, il volume curato da Vittorio Rubiu Brandi, 1590 pagine, 55 euro, ed è pubblicato da Bompiani. E Cesare Brandi, vissuto tra il 1906 e il 1988, fu un grande critico e storico dell'arte, ma anche un grande scrittore capace di appassionare all'arte tutti, non soltanto gli specialisti, come faceva con i suoi articoli sul Corriere della Sera, e queste righe che vi ho proposto ve lo hanno confermato. In questo volume troviamo raccolti i suoi scritti, quasi sempre molto brevi, sotto forma anche di articoli, sui suoi viaggi che ci fanno conoscere non solo l'Italia ma tante parti del mondo, dalla Grecia classica a Bangkok, tutte parti del mondo di cui Brandi descrive le bellezze artistiche ma anche naturali, come avete sentito, ma soprattutto trasmette il clima e l'ambiente. E spesso queste pagine di Brandi sono una documentazione straordinaria ancora oggi per leggere quei luoghi come erano magari prima che venissero devastati e distrutti. E abbiamo appunto in queste pagine la conferma della grande capacità, innanzitutto come scrittore, di questo grande storico dell'arte. Il confettino. Troviamo ancora un albero come tenero protagonista di Chissà dove di Cristina Valentini, illustrato da Filippo Giordano. 32 pagine, 13,50 euro, pubblicato da Zoo Libri. Qui abbiamo un albero appunto che non vuole liberarsi da un semino che lo accompagnerà a lungo, ma che poi troverà la sua strada. E con questo auguro buone passeggiate fra i boschi a tutti. Ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.